Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, una puntata che avrà due motivi di argomento. La prima parte infatti verrà dedicata al fascismo, come il regime cercò di penetrare nella cultura delle giovani generazioni, non solo attraverso i giornali da lui direttamente controllati come il Balilla, ma anche attraverso le altre testate presenti allora in Italia. La seconda parte invece verrà dedicata a un fumetto che in qualche modo rappresenta al meglio le ambizioni, i sentimenti, le attitudini di quella generazione che a fine anni 60, anni 70 scoprì un livello, un orizzonte libertario. Lui è Ken Parker, il trapper della prateria, che poi troverà nella città nuovi motivi di avventura e di scoperte umane e politiche. Quindi un attimo di stacco musicale e poi torneremo appunto con la nostra trasmissione e le nostre interviste. Riprendiamo allora la chiacchierata con Luca Alessandrini, direttore del PARRI, l'istituto storico che fortemente studia sui fenomeni del fascismo e della resistenza, e con Luca analizziamo non solo le testate direttamente controllate dal regime come il Balilla, ma guardiamo meglio le altre testate, quelle che al di fuori del stretto regime fascista comunque si leggevano in Italia. Un'educazione dunque tutta volta a una costruzione razzista, violenta, sciovinista, che rese necessaria evidentemente nel dopoguerra una sorta di grande antidoto democratico, una ricostruzione culturale che fu un po' l'obiettivo di giornali per i ragazzi come per esempio il Pioniere condotto da Gianni Rodari. Ma ascoltiamo l'intervista con Luca Alessandrini. Da sillabario e piccole letture. A O A E A I E A E I E I A L'infiltrazione dell'ideologia fascista nelle coscienze in generale e in particolare in quelle dei ragazzi non avvenne certo solo con gli strumenti direttamente gestiti dai fascisti come il giornalino Il Balilla. Era tutta una stampa nazionale che in qualche modo si accodò alla corte del Duce. E allora abbiamo chiesto a Luca Alessandrini del PARRI se questo accomodamento fu un fatto forzoso oppure se più italianamente ci fu una sorta di autocensura opportunistica di star sempre sul carro del vincitore. L'informazione viene ridotta al servizio del regime attraverso due forme. L'una, chiudendo i giornali. Le cosiddette leggi fascistissime, quell'apparato di leggi che vengono promulgate dal fascismo tra il 1925 e il 1926, prevedono che i direttori dei giornali siano di gradimento della magistratura locale, la quale deve a sua volta sentire il prefetto. Il prefetto è il rappresentante dello Stato in sede locale. Dunque devono essere graditi allo Stato, altrimenti il giornale non può uscire. Quindi innanzitutto c'è la chiusura dei giornali di opposizione e l'asservimento dei giornali esistenti. Ma poi esiste anche un altro meccanismo, che è quello che coloro i quali non hanno la forza, dico intellettuale, non il coraggio, la forza intellettuale di usare il proprio spirito critico, rischiano di essere normali a questa logica. Per cui il razzismo era un pregiudizio abbastanza diffuso, fare vignette razziste, raccontare storie a fumetti in cui gli africani sono stupidi e cattivi e i bravi ragazzi italiani li distruggono, diventa una cosa quasi normale, senza nemmeno porsi il problema ideologico. E questa sorta di asservimento automatico, questa sorta di automatica acquiescenza è tipica dei regimi totalitari, così anche in Italia, anche perché alla stampa si affiancano tutta una serie di altri interventi. Pensiamo per esempio alle associazioni giovanili, i scout vengono sciolti. L'unica associazione giovanile che resta in essere è la Gioventù Italiana Cattolica, per ovvi motivi. L'Italia era un paese molto cattolico e il Mussolini non voleva certo entrare in urto con la Chiesa romana, ma comunque riduce molto le proprie attività, perché tutto viene concentrato attorno alla grande organizzazione fascista che si chiama Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù. ONB, Opera Nazionale Balilla. È una delle prime operazioni che fa il fascismo. Il fascismo, diciamo, va al governo alla fine del 1922, governa in modo estremamente autoritario, ma diventa una vera e propria dittatura a partire dall'inizio del 1925, quando rompe ogni vincolo di legalità possibile e immaginabile e comincia a promulgare leggi di tipo prettamente dittatoriale. Ora, l'ONB nasce subito, nel 1926 è già istituita, già nel 1925 è stata progettata e affidata all'ex ardito Renato Ricci, uno dei più grandi ideologi del fascismo italiano, che era anche alla guida al movimento giovanile del Partito Nazionale Fascista. Ora, l'ONB deve riorganizzare la gioventù dal punto di vista morale e fisico. Morale cosa vuol dire? Essere convinti di essere parte di una nazione gerarchizzata, militarizzata, superiore alle altre, che deve combattere. Ora, nella Prima Guerra Mondiale si era vista una cosa, e qui passiamo al discorso fisico. La Prima Guerra Mondiale era stata combattuta da dei giovani italiani macilenti, in condizioni di salute pessima. Veramente i soldati della Prima Guerra Mondiale oggi ci farebbero impressione per la loro debolezza fisica nella stragrande maggioranza dei casi. E il fascismo si pone il problema di fare dei giovani forti e robusti, non soltanto assicurando attraverso politiche sociali una migliore qualità generale della vita, ma finalizzando questa migliore qualità della vita alla robustezza fisica e alla preparazione militare. Pensate che l'educazione fisica a scuola viene introdotta dal fascismo, ma non si chiama educazione fisica, si chiama pre-militare. Il fascismo punta molto sullo sport, ma su quale sport? Non lo sport decubertiniano, non lo sport anglosassone, non lo sport come responsabilità individuale e come cimento dell'individuo, oppure lo sport di squadra come attività corale. Ma lo sport fascista è uno sport dichiaratamente, è scelto, teorizzato, tutto questo, è uno sport individuale e aggressivo, in cui uno dei due atleti deve prevalere. E se è uno sport di squadra, è gerarchico e sempre spettacolare. Questa è la fascistizzazione della società che opera la Opera Nazionale Balilla. Anche la scelta del nome è tipica di un nazionalismo inventato e aggressivo. Balilla, come è noto, è un ragazzino, Giovan Battista Perasso, che ci sarebbe genovese, che nella Genova occupata avrebbe dato avvio alla rivolta popolare, perché esasperato avrebbe tirato un sasso agli occupanti nemici nel 1746, e da lì si sarebbe generata la rivolta della città. Ora, nel 1746 nessuno pensava ad un'Italia in quanto tale, e meno che mai il povero piccolo Balilla, ammesso e non concesso che sia esistito davvero. Questa figura rimanda ad un'idea della storia fatta di narrazioni esemplari, eroiche, e sulla base di questo è strutturata tutta l'organizzazione della gioventù, che viene militarizzata fin dalla più tenera infanzia. L'Opera Nazionale Balilla prevede che tutti i ragazzi siano militarizzati attraverso l'educazione, sia culturale che fisica, una educazione fisica appunto pre-militare, e attraverso l'immagine stessa che ne hanno. I bambini hanno un uniforme, sono organizzati militarmente, e il sabato è obbligatorio portare tutti in uniforme, sia a scuola che nelle adunate, nei raduni del tempo libero. Si comincia con il figlio della lupa, dai 6 ai 8 anni, vedete, un altro mito parastorico, no? I Romolo e Remo che vengono allattati dalla lupa e fonderanno Roma, Balilla dagli 8 agli 11 anni, moschettiere da 12 a 13, avanguardisti dai 14 ai 17 anni. E gli avanguardisti sono dotati di un pugnale vero, mentre gli altri hanno un fucilino di legno finto. E, ecco, questo credo che dia bene conto di questa struttura. Le associazioni sportive vengono sciolte oppure vengono piegate a riorganizzarsi in modo fascista, a cambiarne il nome, perché lo sport deve essere la pratica della violenza di guerra simulata ma pronta a diventare reale violenza di guerra. La propaganda punta tutta in questa direzione e naturalmente la stampa, anche la stampa per ragazzi, segue. Ringraziamo Luca Alessandrini dell'Istituto Pari per questa chiacchierata a sfondo storico, ma come si sa, quando si parla di ieri si pensa all'oggi. E allora, proprio pensando ai nostri giorni, rimane senza risposta questa ultima filastrocca di Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa di inversetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti? An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, yippee-yi-yo, those riders in the sky. Grandi fumetti. Ken Parker. La seconda parte della trasmissione dunque verrà dedicata a un personaggio, quello di Ken Parker, che in qualche modo ha ben incarnato tutti gli ideali di una generazione che dalla fine degli anni 60 agli anni 70 ha ribaltato gli orizzonti culturali libertari di un'intera generazione, forse di più. Leggendo da Wikipedia, leggiamo che Ken Parker, nome completo è Kenneth Parker, è un personaggio immaginario di fumetti creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo nel 1974. Personaggio particolare e tipico del genere western, la cui serie a fumetti, ambientata prevalentemente in America del Nord in un arco temporale che va dal 1868 al 1908, si distingue per originalità, per la varietà delle ambientazioni e per gli argomenti trattati che spesso esulano dai canoni tipici del fumetto western. Un fumetto che esordisce in edicola nel giugno 77, pubblicato dalla CEPI e che tra le altre vicende, cambi di editore e di formato, sospensione delle pubblicazioni e ristampe rivedute e corrette dagli autori stessi, e la storia del personaggio si conclude nell'aprile del 2015 con l'episodio Fin dove arriva il mattino. La prima serie pubblicata dal 77 all'84 lo rende un personaggio di culto di fumetti italiano, sia per il realismo delle ambientazioni e per la meticolosa ricostruzione storica e filologica che per l'attenzione alle tematiche sociali. Fin qua, dicevo, la ricostruzione fatta da Wikipedia, ma noi in questo percorso recuperato da una bella trasmissione che a suo tempo passò per la RAI, Fumettology, dedicata appunto a Ken Parker, sentiamo le due voci, quelle dello sceneggiatore Giancarlo Berardi e quello del suo principale disegnatore Ivo Milazzo. Non senza però avere prima anticipato queste voci con un breve trailer, un breve stacco dal film Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, perché proprio da questo personaggio e dal volto di Robert Redford prese le sembianze Ken Parker. Grazie dell'invito. Hai fatto molto cammino. Così si dice. E ne valeva la pena? Eh? E chi lo sa? Well, mama, take this badge off of me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Noi andiamo a conoscere da più vicino gli autori di Ken Parker, cominciando dallo sceneggiatore, da chi inventa le storie, Giancarlo Berardi, e con lui impariamo come è nato nel tempo e nell'identità questo personaggio, questo trapper delle praterie. La prima storia non è una storia che io ricordo volentieri, perché è una storiellina alla fine. Dalla quarta avventura in poi cominciai ad essere più sicuro dei miei mezzi, cominciai ad esprimermi più compiutamente, mettendo anche personaggi che, come mia abitudine, diventavano persone, non più personaggi. Quando penso ad un protagonista delle mie storie, parto sempre proprio dall'inizio, dove è nato, come è nato, di chi è figlio, che scuola ha fatto, ma alla fine lo conosco talmente bene che potremmo essere amici. A quel punto lo inserisco in una storia, in un avvenimento, e so esattamente come reagirà, tanto che spesso mi capitava di avere in mente un finale che secondo me era travolgente, e poi ho dovuto buttarlo via perché non funzionava con i protagonisti. Io sono partito nella scelta stilistica da chi mi ha dato la prima emozione visiva, che è certamente Hugo Pratt nelle storie di Ernie Pike. Ho trovato quel suo modo di essere sintetico nella narrazione perfetto per far arrivare quello che era il sentimento voluto. Normalmente gli sceneggiatori lasciavano totalmente o quasi la regia ai disegnatori. Se c'era magari una battuta particolarmente efficace che richiedeva un primo piano, magari il disegnatore in quel momento aveva piacere di disegnare un paesaggio e secondo me la battuta perdeva di efficacia. Ho capito abbastanza presto che avrei dovuto occuparmi anche un po' della regia, perché se no le storie perdevano di significato e si impoverivano. Così ho cominciato a schizzarmi le scene per conto mio e raccontandole poi attraverso un linguaggio tecnico che naturalmente è preso abbastanza dal cinema. E questo mi permise anche di sperimentare, addirittura raccontando senza parola. In particolare ho pensato a quattro storie: Il respiro e il sogno, che in parte sono state influenzate da Hemingway, da Avere e non avere, ed io ho potuto sperimentare la possibilità di raccontare solo per immagini. E mi vengono in mente alcune storie che davvero hanno poco a che vedere col West, perché trattavano i temi che a me stavano a cuore all'epoca. C'è un episodio che si chiama Due passi dal paradiso, parla proprio di un ragazzo che ha preso la strada, diciamo, degli stupefacenti. C'era una trama in cui si sviscerava abbastanza questo argomento, che non era sicuramente mai entrato in un fumetto. Così come Diritto e rovescio, che aveva come protagonista, coprotagonista, un omosessuale. All'epoca era un argomento tabù, ma non solo per i fumetti, cioè in generale, cioè non se ne parlava. Sciopero, un episodio importante, per me poi molto importante, perché trattavo argomenti anche squisitamente politici ed era la prima volta che si faceva in un fumetto. Sono un appassionato in particolare della letteratura americana degli anni 30-40, di quegli scrittori come Hemingway, Dos Passos, Howard Fast. Avevano un'impronta, allora si diceva socialista, nella vita, nel mondo. Insomma. Trattavano con grande attenzione i temi umani, sociali. Quel tipo di letteratura che ha al centro l'uomo mi è sempre interessato in modo particolare. E tutto questo poi si è riversato anche nel mio lavoro, inevitabilmente. Ci sono altri episodi come Casa Dolce Casa, per esempio, in cui finalmente si vedono i genitori di Ken Parker. La mamma aveva le sembianze della mamma di Ivo e il padre invece aveva il carattere di mio padre, che quando lesse l'episodio si offese e mi disse che prima di citarlo avrei dovuto chiedergli il permesso. Io lo presi come un complimento, perché evidentemente era riuscito bene il personaggio, se lui si riconosceva. C'è un altro episodio che per me è stato molto importante, si chiama Ada, ed è l'episodio che poi in qualche modo ha dato l'avvio a Giulia, perché è raccontata in prima persona. È l'idea che poi io ho preso per Giulia, che è venuta molti anni dopo. Finita la serie dei 59 numeri realizzati dalla Sergio Bonelli editrice, mi sono sentito più libero e quindi ho tentato esperimenti di varia natura. Ci sono state le quattro storie del Respiro e il Sogno, e anche la lunghezza degli episodi è variata, perché a questo punto, non avendo quella gabbia che è l'albo bonelliano, ho potuto realizzare storie più brevi, storie molto più lunghe, a secondo proprio del ritmo narrativo e dei personaggi che spesso chiedono il loro spazio. Spesso storie che magari in Bonelli avrei dovuto tenere nelle 96 pagine sono diventate di 180, perché i personaggi si sono evoluti, hanno mostrato, diciamo, tutte le varie sfaccettature che i personaggi, ma soprattutto le persone, hanno. Il tutto naturalmente facendo salvo sempre la continuità, perché la saga si snoda sempre in maniera cronologica e ogni episodio rimane legato all'altro fino all'ultimo. Quando ero ragazzino i miei cugini mi portavano i fumetti che allora erano a strisce, Black Macigno e Capitan Mickey, erano due must allora. Io ero così curioso di capire cosa significassero quelle immagini che imparai a leggere abbastanza presto. Contemporaneamente andavo al cinema perché avevo un parente proiezionista. Mi ricordo che mi ero costruito in una scatola da scarpe di cartone una specie di cinema fatto in casa, cioè al centro del quale avevo ritagliato un rettangolo, e unendo tutte le strisce una all'altra, allora gli albetti, come dicevo, erano a strisce, unendole tutte, incollandole, avevo creato una sorta di pellicola lunga che avevo arrotolato su due rocchetti di filo e quindi li facevo scorrere in modo che anche i miei amici potessero vedere queste immagini. Erano gli anni 50, televisione nelle case non ce n'era, erano rarissime. La radio sì, ma c'era solo Claudio Villa, insomma, più o meno. Poi per un genovese anche strano, perché non facevo pagare il biglietto, quindi era tutto gratis. Mi sono fatto degli amici, divenne una cosa carina, i DVD sono venuti molto dopo, naturalmente. L'apporto di Ivo su Ken Parker è stato naturalmente determinante. La sua capacità di rendere le emozioni dei personaggi, secondo me, era unica. Sulle rombanti arie dei Magnifici 7, sempre restando nel tema del western, torniamo a Ken Parker. Dopo aver ascoltato il racconto di Giancarlo Berardi, andiamo a sentire quello del suo disegnatore preferito, quello che più di altri ha dato corpo anche a queste storie silenziose di Ken Parker, Ivo Milazzo. Il rapporto di lavoro con Ivo era molto particolare, ed era legato molto alla nostra amicizia. Eravamo veramente molto uniti, due persone diversissime ma complementari. Questo modo di stare insieme lo adottammo anche sul lavoro. Era un lavoro fatto molto, molto a quattro mani. Ci sentivamo quasi tutti i giorni. Poi nello sviluppo della storia ognuno era libero di realizzarla come desiderava. C'era una stima reciproca che dava libertà all'altro di essere se stesso in ogni momento. Iniziato ho fatto questa scelta espressionistica, usando il contrasto tra luce ed ombra, eliminando il tratteggio. Nei primi numeri, basta guardarli, si vede che c'è un cambiamento dalle prime pagine all'ultima. Fino a che sono arrivato alla sintesi, dove costruivo in maniera molto elaborata a matite, che andavo a sintetizzare nel ripasso con un segno essenziale, giocando proprio tra il nero e il bianco. Questa impostazione innovativa nasce da una visione comune, da una sensibilità comune che c'è tra chi scrive e chi disegna. Se hai una visione comune, una stima reciproca e riesci a demandare all'altro ciò che gli compete, tu riesci a costruire il racconto perfetto, tra virgolette. Quando poi siamo arrivati all'esperimento del respiro e il sogno, è stato sicuramente l'apice della nostra comunicazione, è stato proprio il desiderio di una sfida ulteriore, vedere quanto fosse possibile raccontare una storia senza nessun tipo di parola, né balloon né didascalia. La narrazione per immagine che c'è nel cinema, dove non ti spiega niente nessuno, e tu devi solamente stare attento a ciò che accade sullo schermo attraverso un'immagine. Quello è un meccanismo che è stato adottato per raccontare Ken Parker, non lo so, ma anche successivamente. Questa narrazione che comporta la compartecipazione del lettore è essenziale. Una in particolare è che Lily Cacciatore, Ken Parker, viene ferito alla fine. Si trova in una caverna per fuggire dai lupi e guardare, finché non gli viene in soccorso questo cane che lo aiuta in qualche modo a sopravvivere. E quella è una storia che mi emoziona sempre. Giancarlo ha costruito quella storia sul mio cane, praticamente. E chiaramente quella storia fa vivere il mio cane, dandogli una vitalità che tutti dicono: ma come hai fatto a renderlo così? C'avevo sott'occhio, quindi vedevo come si muoveva. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?